America 24 di Mario Platero. Una rivoluzione, la fine del laptop, del personal computer come lo conosciamo. A partire da domani e nelle prossime settimane sapremo se il nuovo gadget della Apple, l'iPad, una tavoletta di vetro su un guscio di alluminio, una sorta di iPhone gigante, potrà davvero sostituire il personal computer come pensa Steve Jobs. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. From the short time I've used it, it feels great in the hand, it's wicked fast, I mean it's really fast, and it has software flourishes that are... Chi parla è Walt Mossberg del Wall Street Journal, guru informatico che ha già provato l'iPad in vendita in America solo domattina e in Europa fra 3 settimane. Mossberg dice che non è questione di hardware, ma è questione di software. L'iPad è velocissimo. In un video sul sito del Wall Street Journal, Mossberg dice che in effetti l'iPad è potenzialmente rivoluzionario perché potrà cambiare il mondo dei computer. Potenzialmente resta l'aspetto chiave. L'iPad infatti svolge molte mansioni da PC, ma non ha una tastiera fisica, né un'entrata UBS, né un mouse, cosa che di solito la gente si aspetta. Basta il contatto delle dita sullo schermo. Più che a un Kindle di Amazon, l'iPod, dice ancora Mossberg, somiglia a un iPhone gigante. Basterà abituarsi e potrà fare grandi cose per il suo padrone. Intanto, grazie all'iPad, il titolo Apple sfiora i $238 per azione, il massimo in 52 settimane. Un anno fa era a quota 130. Secondo il New York Times di ieri, questo prodotto sarà polarizzante. I super tecnologici non lo vorranno, perché non svolgerà tutte le mansioni del PC. Il consumatore normale invece resterà infatuato, il prodotto è più di intrattenimento che di lavoro, ha tutto, ma non ha il flash player che serve per vedere la maggioranza dei video in rete, scelta ideologica di Jobs, ma poco importa, guai a perdere i milioni di utenti attesi da Apple, sarà YouTube ad aggiungere i parametri necessari per rendersi leggibile. Well, I think the key thing that's going to happen is the economy is going to start creating jobs again. You're going to start to see businesses across the country start to add to payroll again. Chi parla è Tim Geithner, il segretario al Tesoro americano, dice che l'economia tornerà a creare posti di lavoro, ma ammette che il tasso di disoccupazione resta il problema principale per la ripresa e resterà inaccettabilmente elevato per molto tempo. Bene, fra una mezz'ora avremo il tasso di disoccupazione per marzo in America. Il pronostico di Geithner sembra che sarà rispettato, il tasso atteso è vicino al 10%, al 9,7% per essere precisi, ma se davvero, come affermano gli analisti, ci sarà invece un aumento dei posti di lavoro negli Stati Uniti, sono due calcoli diversi, questo uno di stock e l'altro invece è di numeri correnti, un aumento, dicevo, di 190.000 posti di lavoro, beh, le cose allora forse cominceranno a migliorare e a quel punto la borsa potrebbe davvero sfondare quota 11.000, anche perché giorni fa abbiamo saputo che il manifatturiero comincia a muoversi bene. E il settore immobiliare, da cui tutto è partito? Beh, la Fed questa mattina ha parlato di stabilizzazione, l'indice Schiller ha detto la stessa cosa un paio di giorni fa. Restano però zone ancora devastate dalla crisi, come dice Geithner, ci vorrà tempo. Vediamo che succede in una di queste zone in California. E ricorrente di questi tempi la preoccupazione per l'economia cinese. Si teme un aggiustamento di alcuni dei valori patrimoniali, soprattutto dei valori immobiliari che restano esplosivi. La Cina è ancora uno dei pochi paesi che non ha avuto la crisi immobiliare che hanno sperimentato altre nazioni industrializzate, soprattutto gli Stati Uniti. L'emblema di questa corsa agli acquisti esplosiva è Shanghai, dove si dice che ci sia una bolla veramente pericolosa. Perché? Beh, perché da un punto di vista del reddito, se facciamo un confronto per esempio con gli Stati Uniti, in America a un certo punto nell'apice della bolla immobiliare, in una città come Los Angeles c'erano dei prezzi medi delle case che erano grosso modo 12, 13, a volte 14 volte il reddito medio della zona. A New York i prezzi erano leggermente inferiori, circa 9 volte. Ebbene, a Shanghai si arriva a punte di 18-19 volte il reddito. Dunque è un film già visto, quello che si sta svolgendo a Shanghai, l'abbiamo visto negli Stati Uniti. Abbiamo con noi in linea Daniela Roveda, la nostra corrispondente da Los Angeles, che è andata a visitare quello che è stato un esperimento immobiliare di tipo cinese andato male per via della crisi. Buongiorno Mario. Tu sei stata in una di queste comunità dormitorio, puoi dirci dove, come, raccontarci questa storia? Sono andata a visitare una zona che si chiama Inland Empire ed è una zona di circa 70.000 chilometri di deserto costruita negli ultimi 10-20 anni nell'entroterra californiano tra Los Angeles e San Diego. E questa comunità è passata ad avere quasi nessuno a 4 milioni di abitanti ed è diventata nel giro di pochissimo la 14ª zona urbana degli Stati Uniti. Questo esperimento è potuto avvenire negli Stati Uniti grazie al subprime, se non sbaglio, vero? Sì, perché questa è una comunità a basso reddito di pendolari che lavorano a 2 ore di distanza o a Los Angeles o a San Diego. E il reddito medio è di solo $23.000, ma grazie ai mutui subprime, gran parte della popolazione è riuscita a comprarsi case anche piuttosto care. Infatti il prezzo mediano nel 2007 era arrivato addirittura a $430.000. E quindi hanno comprato queste case e dopodiché che è successo? Sono state pignorate? Cioè, che cosa hai visto in questa città? Che atmosfera c'è? Sembra di essere una città fantasma, quasi la metà delle case sono abbandonate, pignorate dalle banche. E le case abbandonate si vedono subito perché sono quelle con il prato ingiallito di fronte che nessuno innaffia. C'è anche molto vandalismo, barboni, drogati che vivono in queste case dove non c'è nessuno. Quindi la crisi immobiliare ha creato problemi non soltanto di tipo economico ma anche di tipo sociale. E molte banche si aspettano una nuova ondata di pignoramenti perché tra quest'anno e l'anno prossimo vanno in scadenza dei tipi di mutui che non sono subprime ma sono stati chiamati option AMR con un tasso variabile, dove l'acquirente ha potuto comprare una casa anche piuttosto cara da 800 a $1.000 a 1.000.000 mettendo praticamente 0 depositi e pagando soltanto una porzione degli interessi. E quando questi prezzi sono caduti ovviamente questi hanno smesso di pagare il mutuo e hanno restituito pari pari la casa alla banca, questa è un po' la dinamica. Esattamente, perché il valore del mutuo supera alle volte del 20-30-40% il valore di mercato della casa. Ecco, ma Daniela, dici in questo posto che così da come ce lo descrivi sembra un po' abbandonato da Dio, un deserto tra Los Angeles e San Diego, ci sono degli affari, c'è qualche casa che magari qualche nostro ascoltatore può essere interessato a andare a comprare e dire ho una casa in California? Ma io non lo consiglierei a nessuno sinceramente, dal punto di vista puramente speculativo potrebbe essere un buon affare, sempre che il mercato immobiliare e l'economia della California si riprenda. Ecco, allora Daniela, fammi chiedere, scusa, dal punto di vista speculativo, per quanto costa, quanto costava e quanto costa allora oggi una casa dovendola comprare? Il prezzo mediano era 430.000, oggi le case valgono circa il 50% di 2 anni fa. Quindi con 200.000 euro, diciamo, facendo i conti già in euro, si può comprare una villa magari di 300-400 metri quadri con giardino, questo? Sì, con giardino, 2 posti macchina, soffitti altissimi, piscina, bagno, piscina, di tutto. Ecco, ma allora arriviamo al secondo punto, ma perché non consiglieresti di andarci, visto che c'è l'aria condizionata? A parte l'aria condizionata non c'è assolutamente nulla, è una casa, sono case nel deserto, lontane dai centri urbani, attanagliate dal traffico, inquinate, sono un'enorme città dormitorio, brutte e con una qualità della vita, soprattutto paragonata alla nostra, molto bassa. Benissimo Daniela, alla prossima. Bene, ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera, come abbiamo visto con iPad. Ebbene, continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana, ed eccoci alla canzone del giorno. Un sedicenne, Justin Bieber, ha conquistato le classifiche americane con l'album My World 2.0. Il disco successore di My World, che debuttò a novembre, ha venduto nella prima settimana 283.000 copie. Bieber è canadese ed è il più giovane cantante a raggiungere il top dal 1963. Allora fu Stevie Wonder, che aveva 13 anni, ottenne il primo posto con Little Stevie Wonder, The 12-Year-Old Genius. Con tanto passato, il futuro di Justin sembra promettente. Ascoltiamolo in My World 2.0. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a martedì. Buona Pasqua, buona Pasquetta, goodbye and get going!